9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio con tutti voi. Vi invito a chiamare all'800 24 00 24, 349 238 6666 per gli sms, per le mail 9@radio24.it. Tentiamo di fare insieme a voi e insieme ai nostri ospiti oggi il punto su gli aiuti, la batteria, diciamo, dei tre provvedimenti più rilevanti che il governo ha messo in cantiere, che sono in via di definizione anche nel passaggio nelle aule parlamentari, per tentare di sostenere il più possibile innanzitutto la rete di piccola e media impresa italiana, la grande forza dell'economia italiana. E quali sono questi tre provvedimenti? Ve lo ricordo brevemente prima di presentarvi gli ospiti e di iniziare con le domande a loro. Sono innanzitutto la cosiddetta Tremonti-Ter, cioè una misura volta a incentivare l'investimento in quest'anno in cui la voce investimenti è quella che naturalmente col segno meno più forte nel contributo alla formazione del PIL. Invece incentivare gli investimenti delle imprese, soprattutto in macchinari, c'è una lista molto lunga di macchinari il cui investimento è incentivato fiscalmente nella misura del 50%, e questo è un primo blocco di aiuti. Poi c'è una seconda questione, che è quella relativa a incentivare la ripatrimonializzazione delle imprese. Lo sappiamo, storicamente c'è un problema storico che ci portiamo dietro di sottopatrimonializzazione delle imprese. Il ministro dell'economia ha varato una misura per gli incentivi alla quantità di capitale con cui l'imprenditore ripatrimonializza l'impresa, e quindi defalcandogli dal contributo alla formazione del reddito lordo. Terza cosa, poi stiamo parlando di un punto su cui ancora non è ben chiaro come funzionerà tecnicamente, perché si tratta della moratoria di un anno della restituzione del capitale dovuto dalle imprese alle banche per prestiti bancari. Naturalmente non si tratta degli interessi ma del capitale, e si tratta di definire in questo caso quali sono le caratteristiche delle imprese e del tipo di prestito che sarà identificato come tale da potersi aprire alla moratoria. Cerchiamo di capire bene i punti tecnici di questi provvedimenti, quindi se avete delle domande chiamate pure e rivolgetele ai nostri interlocutori. Vi presento i nostri ospiti. Abbiamo con noi Giuseppe Morandini, il vicepresidente di Confindustria, che ha la delega per la piccola industria, oltre a quella del credito, della finanza per le piccole e medie imprese e la semplificazione, insomma il deus ex machina che ha portato a casa in prima persona gran parte di queste misure. Buongiorno Morandini. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E poi in questa prima parte almeno, ma spero che si fermi per tutta la trasmissione, il professor Claudio Zara, che è docente senior dell'area di intermediazione finanziaria e assicurazioni della SDA della Bocconi. Buongiorno professor Zara. Buongiorno a lei, buongiorno anche agli ascoltatori. Allora Morandini, prima di entrare nel merito di ciascuna singola misura, posso chiederle quanto è soddisfatto fino a questo momento, se si pensa che fino a pochi mesi fa, nel levare la voce del rischio terribile di una moria delle imprese fino a che non ripartiva il commercio mondiale, la risposta che veniva era quella di dire sì, ma noi non possiamo fare molto. Invece mi pare che misura dopo misura almeno un percorso si inizia a intravedere. Ma infatti, se questo è l'inizio di una nuova strada che va verso quelle che sono le esigenze primarie della piccola impresa, io direi che si è partiti bene. Di certo, di fronte a una crisi di questa dimensione è evidente che bisogna essere ancora più incisivi. Questa è una crisi di dimensioni secondo me sconosciute, un fenomeno del quale magari diciamo che sappiamo tutto, ma in effetti lo dobbiamo affrontare giorno per giorno e dobbiamo cercare di metterlo in difficoltà. Io credo che la strada della patrimonializzazione delle imprese, la strada del sostegno agli acquisti macchinari, la strada adesso di un provvedimento che possa andare incontro alle esigenze di cassa delle piccole imprese sia la strada vincente. Posso chiederle una cosa? Dal punto di vista tecnico, man mano che queste misure si avviano al passaggio parlamentare, iniziamo dalla Tremonti-Ter, lei confida che l'elenco dei beni strumentali sui quali sarà possibile ottenere l'incentivo sia ulteriormente estensibile, cioè le categorie che in questi giorni, leggendo l'elenco, hanno detto noi non ci siamo, penso per esempio a le piccole imprese che nel turismo hanno agriturismo, non ci hanno trovato i computer e così via. Dall'atmosfera che ha colto nei contatti con la politica, c'è aria di estendere ulteriormente le misure oppure no? Ma noi lo auspichiamo, perché sarebbe importante riuscire a dare questo tipo di agevolazioni al maggior numero di settori possibili. È una misura buona perché è un meccanismo automatico, è un meccanismo applicabile in tempi reali. È evidente che si scontra necessariamente con le scarse disponibilità del bilancio statale. Senta, e invece venendo questa prima domanda generale sulla questione della moratoria, che attualmente è quella, lo vedo immediatamente dagli sms che arrivano, che attira molte attenzioni perché ancora la stragrande maggioranza della platea dei soggetti non ha capito come funziona. Si è capito che le banche hanno, diciamo, qualche remora, anche ieri il presidente dell'ABI Faisola, cioè sui giornali di oggi, dice se passa così com'è il provvedimento le banche non sono d'accordo, perché diventa un esercizio, anzi un ostacolo all'esercizio del credito invece che un incentivo. Nella sua testa, presidente Morandini, questa moratoria a chi si applicherebbe? Cioè, voglio dire, alle imprese che erano in bonus nel rapporto con la banca fino a quanto? 3 mesi prima che scatta il provvedimento? 6 mesi prima? 9 mesi prima? Come lo immagina lei? Ieri c'è stato il primo confronto tecnico proprio su questo tema, questa è la priorità numero uno. C'è un ulteriore incontro tecnico martedì prossimo per definire proprio questi passaggi ed è la tematica che richiede una maggior precisione possibile. Io credo che al di là dell'accordo che possa esserci ABI governo su questa moratoria, è fondamentale gli accordi che si possano fare poi con i singoli istituti bancari. Come piccola impresa noi abbiamo già firmato con degli istituti primari la possibilità del rinvio delle rate sui mutui e sui leasing per 12 mesi, perché questi sono gli accordi operativi. Grazie. Abbiamo le prime telefonate agli ascoltatori, poi col professor Zara. Iniziamo da Marco da Cagliari. Prego Marco. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo soltanto rimarcare un fatto, diciamo, di spiccio all'amministrazione quotidiana. Le banche in giro, a quanto risulta, stanno continuando a praticare interessi altissimi sia per quanto riguarda i fidi che per quanto riguarda gli scoperti. E per quanto concerne per i finanziamenti alle piccole imprese o a chi vuole sorgere, se uno non è già attrezzato di denaro, le banche nel 99% dei casi non concedono niente. Oimè, Marco ci riporta al tam tam che da mesi stiamo tentando di diffondere. Naturalmente non si tratta di rilevare accuse nei confronti del sistema bancario, ma si tratta di rilevare una situazione che spesso i dati ufficiali dell'ABI tendono, diciamo così, a presentare in una forma un pochino diversa e con un allarme certo diverso da quello del fronte delle imprese. Poi abbiamo Costantino da Como, io ricordo che il numero di telefono è 800 24 00 24, prego Costantino. Salve dottore. Prego. Io vorrei essere un po' prolungato un po' così. Comunque, non parlate, gli imprenditori non parlano mai di questa cosa. Hanno le autovetture di lusso, hanno le doppie case. Se loro non sono capaci di farsi i conti, no? Di farsi i conti per la loro azienda che vanno oltre misura, no? Non è colpa delle banche. Dopo un'altra cosa che vorrei soffermarmi, no? Cioè lei dice, sì, i piccoli imprenditori si lamentano tanto, ma in realtà hanno un po' la botte piena, ecco. Esatto, ah. Esatto. Il SUV ce l'hanno loro, hanno la macchina in montagna, hanno il mare, hanno i gommoni, io sono qua al mare. 10 anni fa si vedeva il motore da 25 cavalli, oggi vede il motore da 150 cavalli. Va bene, e poi cosa dice? E poi un'altra cosa, no? Purtroppo noi, no? Abbiamo come sappiamo tutti, no? Abbiamo il pubblico impiego, no? Sì. Che è un'altra Italia, no? Mm-hmm. Rispetto ai lavoratori e dipendenti delle piccole e medie imprese. Questi fanno la fame, lavorano un sacco di ore stressati dai padroni per modo di dire, né? Invece noi abbiamo un pubblico impiego con le sue 2000 euro al mese. Grazie Costantino, sta recuperando in questa seconda parte, almeno si è ricordato anche che c'è un pubblico impiego che non rischia rispetto invece agli imprenditori e ai loro dipendenti che rischiano scommettendo tutto nella rete di piccole imprese. Professor Zara, senta, con lei faccio un passo indietro invece, cioè dal suo punto di vista, lei è uno studioso che in concreto ho visto le pubblicazioni che ha curato, i corsi che fa, insomma, prepara dei giovani che domani dovranno occuparsi, per esempio, di dare un rating alla piccola impresa facendo di professione l'intermediario finanziario o lavorando come operatori dell'intermediazione finanziaria. Cioè, uno dei punti più delicati aperti oggi nel rapporto tra il sistema della piccola impresa e il sistema bancario italiano. Cioè, la questione diventa quella: si può ridurre in un momento di crisi come questa il rapporto volto alla concessione o volto a negare un credito, un impiego finanziario? Si può ridurlo a pochi coefficienti numerici, Basilea 2 per intenderci in termini tecnici, quando invece oggi è in questione il track record storico, per esempio, dell'affidabilità dei rapporti che una piccola impresa ha saputo garantire con i suoi clienti e fornitori? Oppure, quando questi coefficienti non tengono presente la quantità e la qualità del capitale umano su cui hanno investito negli ultimi anni e su cui si sono impegnati, per esempio nel business plan di quest'anno, a continuare a investire? Ecco, io le chiedo di fare un passo indietro, insomma, di farci riflettere nei rapporti tra sistema bancario e piccola impresa. Non c'è questo elemento che manca? Hanno ragione o torto i piccoli imprenditori quando dicono: voi non ci sapete valutare? Ma allora, direi che il fenomeno, ovviamente, è un fenomeno molto complesso. Cerchiamo di mettere alcuni punti fermi. Allora, il primo punto fermo è questo: è evidente che le banche ormai sono diventate a tutti gli effetti delle imprese orientate al profitto. L'articolo 10 del testo unico in materia bancaria e creditizia lo sancisce, ma poi nella pratica le banche sono delle imprese, ripeto, orientate al profitto. Quindi, come tale, questa idea, che è un'idea che molte persone hanno ancora come retropensiero, di una banca come un soggetto orientato alla pubblica utilità, che era quello che prevedeva la precedente legge bancaria, oggi non può più essere. Quindi, partendo da questo punto fermo, però ci sono degli altri punti da sottolineare. Il primo è questo: è evidente che per le banche le imprese sono un pane quotidiano, cioè senza le imprese le banche non guadagnano. E perché dico questo? Perché, attenzione, una banca nella sua attività fondamentale raccoglie da chi ha dei soldi e li dà a chi ha bisogno di soldi. Nel momento in cui la banca raccoglie, in realtà ha un costo. Quindi, se queste risorse che lei ha raccolto e che le costano non le impiega da un'altra parte e quindi genera dei ricavi, è evidente che non riuscirà a generare profitti. E questo è un altro punto fondamentale. Venendo alla sua domanda, in questo quadro fondamentale è evidente che la banca deve saper fare la banca. Quindi, nella fattispecie, deve capire l'impresa, deve conoscere l'impresa, deve capire se l'impresa è meritevole o meno del credito. Anche perché un'altra cosa che spesso non viene considerata è questa: io faccio credito alle imprese e guadagno, però, attenzione, questa attività mi richiede appunto di rischiare del capitale. Nel momento mi sa che è caduta la linea o stiamo... Ah no, si sente ancora. Prego, prego, abbiamo avuto una frazione di secondo di linea caduta. Ho capito, devo eventualmente ripetere l'ultima cosa che stavo dicendo. Sì. Ecco, stavo dicendo, attenzione, dobbiamo tenere sempre presente che quando la banca finanzia l'impresa e quindi genera per se stessa dei ricavi, dei potenziali profitti, però attenzione, lo fa rischiando il capitale. Perché se l'impresa fallisce, a questo punto la banca perde pro quota o anche in tutto il capitale che aveva investito. Quindi per la banca è un'attività redditizia, profittevole, ma anche rischiosa. Quindi è fondamentale per la banca capire quello che normalmente si dice il momento e le prospettive dell'impresa. Quando lei sottolinea il discorso del rating, sono perfettamente d'accordo con lei, cioè il rating non è strumento per capire il momento dell'azienda e le prospettive dell'azienda. Perché? Perché innanzitutto il rating si basa su dati storici, quindi ci dà una fotografia di quella che è stata l'azienda, non certo di quello che sarà l'azienda. Secondo, i rating normalmente, in particolare i rating interni bancari, sono basati quasi esclusivamente su dati quantitativi di bilancio e quindi non colgono gli elementi che noi chiamiamo intangibili, quindi quelli che ricordava lei, dalla capacità del management, dalle idee imprenditoriali, dalle prospettive di sviluppo, quindi tutte queste cose che in realtà per un imprenditore sono il pane quotidiano per crescere e per sviluppare la sua azienda. Oh, ma nella sua esperienza, siccome i dati, e ancora ieri Draghi intervenendo in questa sua audizione parlamentare, che ha giustamente attirato l'attenzione della prima pagina perché ha sollevato il problema di tante piccole imprenditori che oggi di fronte alle difficoltà delle sezioni di credito possono diventare vittime dell'usura e della criminalità. Sottolineo che a Milano, per esempio, e dell'altro ieri il suicidio di un tabaccaio esattamente per questo problema, cioè siamo al punto in cui qualcuno inizia purtroppo a perdere la testa di fronte al fatto che per tentare di reggere i conti, magari senza dirlo ai propri soci, ha affidato la sostenibilità finanziaria in maniera arrischiata della propria piccola impresa o del piccolo esercizio agli strozzini, e gli strozzini poi mandano gli esattori con le pistole. Ecco, ma detto questo, questa situazione che ha anche elementi di torsione così rischiosa, il governatore della Banca d'Italia ieri ha usato un'espressione forte e l'ha rivolta anche alla platea dei banchieri italiani il giorno dell'assemblea dell'ABI la settimana scorsa. Ha detto: cari signori banchieri, i dati parlano chiaro, i piccoli gruppi, quelli che sono radicati più territorialmente, quindi il sistema del credito cooperativo, delle banche popolari, delle ex casse di risparmio che non hanno conferito la banca in grandi aggregazioni bancarie, quelli hanno continuato a dare alla piccola impresa volumi maggiori, hanno praticato minori restrizioni sui rientri, sul riscontro delle fatture e così via. Questo, professor Zanna, nella sua esperienza, da cosa dipende? Dipende semplicemente dal fatto che questi piccoli istituti dipendono di più ovviamente dai loro clienti territoriali, o hanno davvero saputo mantenere nel proprio recinto di business, nel proprio modello aziendale, una capacità di sapere guardare negli occhi e sapere giudicare non solo l'affidabilità del passato, ma anche di sapere distinguere nel merito di credito sull'esercizio in corso così difficile chi se la caverà meglio rispetto a chi se la caverà peggio, mentre i grandi istituti bancari danno o negano credito esclusivamente con modelli di gestione centralizzata che non hanno niente a che vedere con la capacità di guardare negli occhi il piccolo imprenditore. Qual è la sua esperienza? Sì, allora diciamo che le cose che lei ha sottolineate sono vere, però c'è anche qualcosa in più, nel senso che indubbiamente una piccola banca del territorio a carattere cooperativistico, quindi non dimentichiamoci, quindi con un minore orientamento al discorso del profitto rispetto alla banca SPA di cui dicevo prima, ha sicuramente una sensibilità diversa sul suo territorio e in particolare sulle piccole e medie imprese che ci sono in quel territorio. Ma io credo che il problema, se vogliamo, lo possiamo vedere anche in una maniera un po' più ampia ed è la seguente, ovvero sia, prima stavo parlando dei rating. Attenzione, i rating sono stati introdotti per motivi di vigilanza, cioè per allocare il capitale proprio delle banche sui prestiti. È il discorso che dicevo prima. Io rischio, quindi l'ente di controllo mi dice: non puoi rischiare tutti i soldi che raccogli, devi metterci anche del tuo. Quindi i rating servono per stabilire quanto ci devo mettere del mio. Ecco, questo è un punto fondamentale, perché il rating nasce appunto come strumento per applicare delle normative di vigilanza. Dov'è che si sbaglia? Si sbaglia quando si vuole utilizzare il rating, che nasce per questo obiettivo, per fare anche politica creditizia. Cioè, cosa intendo dire? Intendo dire, se io utilizzo uno strumento che è nato per degli obiettivi di vigilanza, per decidere effettivamente se dare i soldi a un'impresa, a un imprenditore oppure no, ecco che sto utilizzando uno strumento in parte sbagliato per fare un lavoro diverso da quello per il quale è stato concepito. E arrivo anche alla piccola banca cooperativistica, questo è un punto importante. Nelle varie scelte che l'organo di vigilanza ha dato alle banche nell'affrontare questa tematica, le piccole banche di norma hanno scelto di non sviluppare loro dei sistemi di rating, sostanzialmente di farsi guidare dall'organo centrale, mentre invece le grandi banche hanno investito pesantemente su sistemi di rating propri, quindi spendendo molti soldi. A questo punto cosa succede? Abbiamo come sempre la linea che va e viene. Un secondo, a questo punto cosa succede? Stava dicendo. Sì, dicevo che a questo punto le grandi banche che hanno investito molto su questi sistemi di rating vogliono, diciamo, tornare da questi investimenti e quindi hanno una tendenza a sviluppare maggiormente un utilizzo dei rating anche sulle scelte di politica creditizia. Lo so, ma in quest'anno questo ritorno può avere degli effetti abbastanza spiazzanti, per così dire. Una telefonata, Luca da Milano, vediamo se riusciamo anche a introdurre qualche altro elemento che fino a questo momento abbiamo trascurato. Prego Luca. Sì, buongiorno. Niente, più che altro il mio era un aneddoto più divertente che polemico relativamente a quanto le banche stanno o non stanno finanziando le imprese. Io ho una piccola società, una piccola SRL che si occupa, che lavora nel settore dei servizi. Per fare dei piccolissimi investimenti che dal 2005 ad oggi abbiamo sempre fatto con i nostri soldi e che oggi potremmo fare con i nostri soldi, ma l'unico modo per acquistarlo è un pagamento con la carta di credito, essendo dei servizi online, abbiamo chiesto questa carta di credito al nostro istituto ed è 2 mesi e mezzo che io sto aspettando una carta di credito con un affidamento da 2.500 euro. Cioè, insomma, non ecco, una roba... Non proprio, non si espone a grandi rischi il bilancio della banca. Mi pare assolutamente di no, con un saldo di conto corrente che è quasi 3 volte quello che chiedo di affidamento, attivo chiaramente, mannaggia, dico... Io sto perdendo delle opportunità di lavoro, seppur piccole, ma per una quisquiglia di la banca ha chiesto la CR, il direttore in ferie, il capo area ha le sue fregole e via dicendo, sempre le solite scuse. Però vabbè, ripeto, era più divertente che sul polemico. Grazie, buona giornata. Grazie Luca. Presidente Morandini, io adesso le devo chiamare la pubblicità, ma subito dopo vorrei lanciarle una riflessione aggiuntiva. Le banche dicono i piccoli imprenditori dovrebbero imparare a mettere più proprio capitale nelle aziende, quindi riflettiamo un secondo tra scudo fiscale in arrivo e incentivo fiscale promesso dal ministro Tremonti alla ripatrimonializzazione, se questa cosa poi è in realtà davvero fondata oppure no. Eccoci tornati in studio, buona mattinata agli ascoltatori, stiamo facendo il punto insieme con il presidente Giuseppe Morandini, il presidente che ha la delega per la piccola industria, lui è vicepresidente nazionale di Confindustria, sui provvedimenti che il governo ha varato, il Parlamento sta approvando per il sostegno finanziario e patrimoniale innanzitutto alla piccola impresa italiana. Ecco, presidente Morandini, dicevo, ora che è in arrivo lo scudo, cioè la regolarizzazione, la possibilità di regolarizzare capitali costituiti all'estero da parte di contribuenti italiani, il cosiddetto scudo Tremonti, si aspetta che questo incentivo sia anche stato ben finalizzato per far venire voglia, diciamo così, ai piccoli imprenditori di prendere parte almeno di queste somme regolarizzate e mettere nelle proprie aziende, oppure su questo si poteva far meglio e si potrà far meglio nel passaggio parlamentare? Ma guardi, come piccolo imprenditore ci interessa molto di più il provvedimento per la ricapitalizzazione delle nostre aziende, con l'incentivo fiscale a immettere capitali nelle nostre attività. Però io credo che per fare chiarezza a questo punto del confronto, del dibattito, bisogna mettere ben chiare 3 cose. La prima, il sistema ha una grande necessità di liquidità, non solo per sopravvivere, ma anche per evitare quell'elevatissimo rischio che così bene il governatore Draghi ieri ha messo in risalto, che è quello dell'usura e del riciclaggio. Per le banche il governo ha riservato fra Tremonti Bond e fra fondi della Cassa Depositi e Prestiti quasi 20 miliardi di euro. Non solo, ha finanziato per 1,5 miliardi il fondo di garanzia che consente alle banche di ridurre al 50% il rischio degli affidamenti nei confronti delle imprese. Non si sa ancora bene perché le banche questi fondi non li abbiano utilizzati. Seconda cosa, il richiamo suo alla necessità di patrimonializzazione delle piccole imprese è legittimo. Qui so che non è una cosa facile da dire, ma noi imprenditori dobbiamo capire che non possiamo più litigare col patrimoniale delle nostre aziende, da questa crisi, io lo dico sempre, non esce la grande impresa piuttosto che la piccola, quella che ha 100 dipendenti piuttosto che quella che ne ha 10. Da questa crisi esce l'impresa patrimonializzata, quella che può affrontare un rapporto negoziale con qualsiasi istituto bancario, sia sulla moratoria dei crediti che sulla concessione degli affidamenti e sulle condizioni bancarie. Terza cosa riguarda il legislatore e il controllore: bisogna rivedere in tempi assolutamente brevi i parametri di Basilea 2. Basilea 2 in questo momento sta funzionando in strada direttamente opposta, in direzione direttamente opposta rispetto a quello che è l'andamento della crisi. Invece di dare, chiede. Invece di dare, chiede. Sì, non avevo capito bene il verbo finale. Posso fare una domanda, Morandini? Lei si aspetta che si eserciterà una specie di, si chiama mismatch in termini tecnici, voglio dire, quanto quando ripartirà il commercio mondiale i piccoli italiani, soprattutto chi sta nella manifattura e soprattutto chi è nella manifattura in filiere ovviamente orientate all'esportazione, penso a questo: in Germania, cioè il paese che ha manifattura ed export, è l'unico che ne ha un po' più di noi nell'Unione Europea, il governo da quattro mesi ha messo in piedi un fondo, avendo diversa disponibilità rispetto a quello italiano, rispetto ai tetti di debito pubblico, un fondo di 100 miliardi di euro volto tra le altre cose anche proprio a ripatrimonializzare su istruttorie caso per caso il Mittelstand, cioè la piccola e media impresa tedesca, anche in quel caso la spina dorsale di quel paese. La mia domanda è chiaro, noi non potevamo permettercelo perché bisogna sapere che noi abbiamo un debito pubblico così pesante, ma Presidente Morandini, quanto peserà il fatto che alla ripresa del commercio mondiale ci saranno nostre concorrenti, imprese nostre concorrenti, vostre concorrenti, che avranno avuto la possibilità di avere quel sangue in circolo, mentre a noi questa possibilità era negata perché con il debito pubblico che abbiamo non si poteva certo mettere in piedi un fondo di 100 miliardi di euro per questo? Allora guardi, come sempre, prima di chiedere, a me piace fare una riflessione su quello che possiamo dare. Se noi vogliamo raggiungere lo stesso livello di competitività dei nostri competitori tedeschi, è necessaria una grande revisione dell'organizzazione aziendale nostra. Noi abbiamo bisogno di avere delle strutture, delle aziende molto più strutturate. Quindi la necessità che noi sentiamo forte è di un grande rilancio di una politica di aggregazione che consenta di razionalizzare le filiere produttive, alcuni settori produttivi, rendendoli assolutamente più competitivi. E se parliamo d'estero, una cosa che non si tratta mai, c'è un'enorme difficoltà nel procedere all'assicurazione crediti esteri. Stiamo parlando da mesi di credit crunch bancario. Purtroppo c'è un crunch anche nella possibilità di assicurare crediti all'estero. Anche qui, e qui sì, servirebbe un grande intervento dello Stato affinché possa consentire, come altri paesi hanno, una compagnia, fra virgolette, di bandiera che accompagni veramente nelle vendite all'estero la piccola impresa. Ora la voce di alcuni ascoltatori, poi torniamo col professor Zara. Iniziamo da Sabrina in provincia di Perugia. Prego, buongiorno, Sabrina. Volevo rivolgere una domanda al Presidente Morandini. Buongiorno Presidente. Diciamo che la riflessione che mi pongo è la seguente: sono stati fatti alcuni provvedimenti, diciamo alcuni su cui potremmo discutere e altri buoni, come ad esempio quello dello sgravio per gli aumenti di capitale. La domanda che io mi pongo in questo momento è che mi sembra si stia provvedendo a sostenere imprese, piccole e medie imprese, ma non le piccole e medie imprese veramente in condizioni di crisi. E chiaramente chi ha già messo tutto in azienda malvede la possibilità di procedere a un ulteriore aumento di capitale. La domanda che le volevo porre è se voi, chiaramente come Confindustria Nazionale e ovviamente lei in qualità di Presidente per la piccola e media impresa, vede all'orizzonte dei provvedimenti che in qualche modo possano intervenire su questa parte delle piccole e medie imprese veramente in forte difficoltà. Cioè quella quella che più rischia in termini di continuità aziendale. Parliamoci chiaro, Sabrina. Benissimo, bene. Esattamente. La ringrazio molto, grazie Sabrina. Poi abbiamo Tarcisio da Varese. Prego Tarcisio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io per professione faccio mediatore creditizio, iscritto all'elenco che c'è all'ABI, e quindi devo mettere in contatto banche e clienti. Allora, partiamo dalle imprese. È vero, le imprese sono le piccole imprese sottocapitalizzate, però non è mai stato fatto nulla nel tempo per aiutarli a capitalizzarsi. Mi spiego con un esempio solo: il capitale minimo necessario per mettere su una SRL è 10.000 euro, che corrisponde ai vecchi 20 milioni, cifra che era stata stabilita penso 30 anni fa, 40 anni fa dalla legge, no? Ci sarà una differenza di valore fra i 20 milioni 40 anni fa e i 10.000 euro di oggi. In questo lasso di tempo non è stato mai emanato qualche regola, qualche legge che favorisse le imprese, le piccole imprese, per aumentare il patrimonio netto, il capitale che si vuole. Seconda considerazione, importantissima: le piccole imprese non fanno il mercato, lo subiscono. E questo è molto importante. Le piccole imprese non sono la Fiat che quando ha crisi esce sul Corriere piuttosto che sul Sole, metto in cassa integrazione 5.000 persone e si muove il mondo. In questo momento stanno morendo decine di piccole imprese e non se ne accorge nessuno. Andiamo alle banche. Le banche hanno utilizzato Basilea 2, come diceva il professore prima, per fare affidamenti, sbagliando, ma soprattutto come alibi. Perché? Perché non avevano bisogno di fare i bilanci con le imprese, li stavano già facendo con le porcate che possono venire fuori. Dottore, abbia pazienza. No, ma io lo sottolineo perché sono d'accordo, sa. Non perché critico. È ora di dirlo che tutto questo è stato creato dalle banche e stiamo pagando quello che sono stati gli errori. Se io sbaglio nel mio mestiere, come minimo non mi pagano la parcella, come minimo, e magari rischio di essere buttato fuori dall'albo. Lei ha visto qualcuno buttato fuori dalle banche? Direi non molta, la lista non è lunga, insomma. Quindi, diciamo così. Ultimissima considerazione, per quello che riguarda il rapporto fra banche e imprese. Fino a qualche anno fa venivano affidati ai direttori delle autonomie piccole o grandi, ma soprattutto veniva chiesto al direttore di guardare l'azienda. Io le garantisco che spesso nell'ambito di una richiesta di un fido sono io a invitare il direttore o chi per lui a venire a vedere l'azienda, perché a volte viene dato o non dato un fido senza nemmeno sapere se l'azienda fisicamente esiste. No, nei grandi istituti è così, ma nei grandi istituti devo dire le condizioni di stress date da aggregazione e da personale che spesso finisce per svolgere questa funzione senza essere stato trained to, come si dice, non è stato minimamente formato a farlo, non ha l'esperienza, faceva altro. Nei grandi istituti quello che ci ricordava adesso Tarcisio da Varese è la prassi più che l'eccezione, purtroppo, e prendersela con il direttore di filiale d'agenzia diventa un esercizio retorico, perché il direttore al di là di tutto ti guarda e dice: ma tu sai quali sono i problemi con i quali io devo avere a che fare tutti i giorni, quando che alzo la sala cinesca, che chiudo la sala cinesca? Quindi è un problema proprio di organizzazione dei modelli gestionali dei grandi istituti. Ancora un ascoltatore, Gianluca da Padova. Sì, buongiorno dottore. Buongiorno. Volevo rivolgere una domanda all'altro dottore e volevo chiedere se per caso è a conoscenza dei numeri reali che stanno colpendo il Veneto, cioè sono oltre 20.000 famiglie senza un reddito, senza un stipendio. Ci sono le Caritas trevigiane, quindi quella di Treviso e quella padovana e quella di Vicenza, che stanno facendo fronte per sostenere tutte queste famiglie, e gli ultimi 5.000 dipendenti sono stati lasciati a casa l'altra settimana. Ora io quello che mi chiedo poi, se tutte le aziende del Veneto stanno giocando o stanno speculando sul fatto di chiamare crisi e di mettere in cassa integrazione e in cassa disoccupazione e via dicendo, quindi utilizzando, diciamo, dei sostegni da parte dello Stato e derubando a un certo punto lo Stato e bugiardando i loro dipendenti. Lei ha il sospetto che sia così? Lei pensa che per un imprenditore, dico, i tempi che corrono, sia forte la tentazione o ci sia un guadagno di immagine sociale, un guadagno di conto economico nel fare così? Glielo chiedo sinceramente. Sinceramente io come cittadino sarei il primo a poter fare una cosa, di andare alla Guardia di Finanza e fare una bella denuncia a livello nazionale, perché sta succedendo questo. Oltre c'è un'altra cosa che voglio specificare, ed è un dato di fatto, perché io sono un presidente di un comitato per i diritti del trasportatore. Da agosto dell'anno scorso ad agosto di quest'anno ci sono oltre 20.000 autisti a casa, partendo dalla Lombardia, arrivando fino nel Friuli. No, ma questo che ci sia un enorme problema nel trasporto e nella logistica, confermo il commercio mondiale, questo lo dicono i dati, quindi purtroppo lei ha ragione in questo. Io ringrazio Gianluca, e mi pare che la domanda di Gianluca e quello della nostra ascoltatrice Sabrina si incentrino soprattutto sulle piccole, ma quelle in sofferenza, cioè quelle che sono in sofferenza, c'hanno i problemi già conclamati di continuità aziendale. Eccoci tornati in studio. Presidente Morandini, qui continuano ad arrivare allarmi su quelli che hanno difficoltà serie ad andare avanti adesso, quindi non sono nemmeno in grado di poter beneficiare dell'eventuale ripatrimonializzazione o dello sblocco dei rapporti attraverso la moratoria di credito con le banche. Si è fatto abbastanza per loro, onestamente, secondo lei? E continuiamo anche a farlo, però è evidente che si esce da questa situazione di crisi non solo con gli avvisi comuni, ma anche con gli sforzi comuni, con i rischi comuni. Le tre domande degli ascoltatori sono un quadro perfetto di quella che deve essere la nostra attività già da oggi pomeriggio. Patrimonializzazione delle imprese, ci sono due strade. Sulla prima abbiamo lavorato. La prima, per la prima volta, lo notava anche l'ascoltatore che mi ha fatto la seconda domanda, si parla finalmente di incentivi a capitalizzare l'impresa. Quindi su questa misura qui bisogna dare una lettura d'insieme, una lettura del sistema. In questo momento l'imprenditore ha l'incentivo fiscale a finanziare l'azienda, chi lo può fare? La seconda cosa, con questa capitalizzazione c'è già l'accordo delle banche. Qualora l'imprenditore metta uno, la banca è disponibile a mettere 2, 3, 4, 5 volte quello che ha messo l'imprenditore. Quindi ai fini dell'utilità aziendale abbiamo l'agevolazione per l'imprenditore, il volano che le banche si sono impegnate a mettere a disposizione, le banche sono incentivate a creare questo volano perché a loro volta hanno un incentivo fiscale sul trattamento delle perdite su crediti. Quindi si è ragionato per una volta in termini di sistema. Queste però sono le imprese e gli imprenditori che hanno ancora disponibilità liquide da mettere in azienda. Per gli altri il problema è complesso, perché ha delle sfumature importanti anche in termini culturali. Chi ha già impegnato tutto in azienda non può fare altro, e lo dico anche per esperienza personale, di ragionare in termini di strategia comune. L'ascoltatore prima diceva che le piccole imprese subiscono il mercato, lo subiscono fin tanto che sono così piccole da volerlo subire. Perché proviamo a pensare, anche 10 imprese deboli che si mettano assieme comunque danno vita a una nuova struttura produttiva che è molto più dimensionata e ha delle possibilità di economie di scala, di risparmi in termini di costi notevoli. Pensate, 10 imprese si mettono assieme, invece di 10 organizzazioni commerciali una sola, invece di 10 centri acquisti uno solo, invece di 10 centri logistici uno solo. Questa è la riflessione che noi dobbiamo fare, non è una cosa facile, perché comunque si chiede all'imprenditore di fare un passo indietro verso una gestione di sistema, però io credo che questa sia l'unica strada se vogliamo salvare il maggior numero possibile di piccole imprese e di conseguenza il maggior numero di posti di lavoro. Ha ragione l'ascoltatore del Veneto, la situazione in Veneto, ahimè la conosco, significa 85.000 posti di lavoro in meno fra maggio 2008 e maggio 2009. Da questa crisi però non si esce per legge, da questa crisi si esce senza conflitti, senza contrapposizioni, cercando di ragionare tutti assieme nel rispetto dei propri ruoli, prima di tutto cosa può dare ognuno di noi. E poi chiedendo al governo di mettersi a disposizione quegli strumenti fiscali, ad esempio di grande rilancio delle aggregazioni aziendali, che non costano molto, ma che potrebbero dare dei benefici decisivi. E delle economie di scala oggi essenziali. Io faccio una domanda, anzi una duplice domanda al professor Zara. La prima riguarda ancora le banche, la seconda invece riguarda le reti territoriali di imprese. Allora, in materia di rapporto tra banca e impresa, penso al provvedimento decreto di moratoria di un anno per la restituzione di rate del capitale per prestiti bancari. Naturalmente questo non tocca invece gli interessi che si dovranno continuare poi a pagare alle banche che hanno erogato il credito. Ma a questo proposito, lei non pensa, penso male per un secondo, faccio l'avvocato del diavolo, lei non pensa che le banche in questo portano a casa l'incentivo fiscale che il governo sta definendo insieme a loro, e sarà un incentivo naturalmente sugli interessi negativi che l'aumento di sofferenza e incagli quest'anno inevitabilmente assume come voce sempre più pesante nella parte patrimoniale oltre che in quella di conto economico. Intanto quindi le banche si portano a casa nuovi incentivi fiscali. Io ricordo che le banche hanno avuto incentivi fiscali già nel decreto luglio 2008, il governo appena nato, sugli avviamenti, i valori degli avviamenti storici nella parte dell'attivo patrimoniale, e per quegli incentivi fiscali stanno facendo tra il 30 e il 50% degli utili pro forma nelle prime due trimestrali dell'anno. Quindi le banche si lamentano, ma hanno avuto più delle imprese dal punto di vista degli incentivi fiscali. Allora ripeto, le banche portano a casa questo, primo. Secondo, per un anno non procedono nel mandare a sofferenza in gli impieghi di cui c'è la moratoria. Io vedo che immediatamente loro ci guadagnano molto, ma non è che proprio per questo facciamo questa cosa, cioè che sono le banche a guadagnarci più delle imprese, punto numero uno. Punto numero due, dal punto di vista di una università come la Bocconi, la SDA Bocconi, quest'anno voi avete visto reti di imprese venire da voi a dire elaborateci dei modelli di bond territoriali da proporre al sistema bancario, domanda, oppure dei modelli di consolidato fiscale distrettuale da proporre all'Agenzia delle Entrate? Oppure no, o è fantascienza pensare questo, cioè che siano le associazioni a venire da voi e a dire mettiamoci insieme e proponiamo noi alle banche senza aspettare che siano le banche a farlo? Sì, allora parto subito da questa seconda domanda a cui do una risposta molto rapida, nel senso che sostanzialmente la risposta è no. Devo dire che in questo non osserviamo un forte attivismo da parte, chiamiamolo così, del tessuto delle imprese, in particolare piccole e medie imprese, a essere soggetti attivi verso il tema della finanza. E poi magari questo lo riprendo un attimo, ma passo alla prima sua domanda. Ma io non credo che in realtà le banche ci guadagnino da queste misure, e credo che le banche tutto sommato non siano neanche interessate più di tanto a queste misure, e le spiego perché. Se noi guardiamo ad esempio i dati di sofferenza, c'è un aumento in questo primo semestre del rapporto sofferenze su impieghi, ma l'aumento è soprattutto legato alla parte non produttiva, quindi famiglie o consumatrici o anche famiglie produttrici. Professore, io non la voglio interrompere, però ci abbiamo un problema storico noi su questo, cioè noi abbiamo un ritardo medio nel procedere a fare prima la sofferenza, poi l'incaglio. Io ricordo che nella prima trimestrale di quest'anno Unicredit e Intesa non hanno provveduto ad alcun accantonamento per esposizioni, e stiamo parlando di esposizioni per più di 1,8 miliardi complessivamente, i due maggiori istituti, relativi al risanamento Zunino. Cioè noi qua ci abbiamo un problema di trasparenza vera su questo. Chiudo l'inciso. Sì, diciamo concordo con lei, però consideri una cosa: noi abbiamo un sistema bancario dove le prime 40 gruppi bancari sono aziende quotate, quindi comunque soggette a una trasparenza informativa, a un vaglio anche dagli organi di vigilanza. Lei considera invece che su 100.000 aziende corporate in Italia ce ne sono circa 300 quotate, quindi se c'è un problema di trasparenza, a mio modo di vedere, non è certo nel settore bancario, anzi da questo punto di vista il settore bancario dovrebbe essere preso ad esempio da tutti gli altri settori come un settore che sulla trasparenza sicuramente opera molto meglio rispetto agli altri settori produttivi. Ma tornando a quello che volevo dire che il problema al momento, augurandoci che continui a essere così, non è di un rapporto sofferenza su impieghi fuori controllo nel settore delle imprese. Il rapporto sta salendo, ma non sta salendo ad esempio così tanto come ci si poteva aspettare. Quindi può essere, come dice lei, che in parte le banche giocano sulla riclassificazione del credito tra bonus, incagli e sofferenza. Nella mia esperienza sì. e questa può essere una faccia della verità, ma un'altra faccia della verità può essere quella che comunque le nostre imprese poi alla fine non è che stanno andando così male, certo, o comunque non stanno andando così male in rapporto anche ad altre economie, dove invece vediamo dei rapporti che si stanno impennando. E quindi lei dice, tutto sommato, sono più le imprese a guadagnare dalla moratoria di quanto le banche non ne abbiano davvero... Quello che volevo dire era questo, che alla fine le banche, cioè il problema delle banche, io non credo che sia quello di portare a casa qualche sgravio fiscale, certo tutto fa comodo e tutto serve per fare il conto economico, ma non è quello il punto. Io credo che ad esempio per una banca che finanzia le imprese, due sono le cose importanti. La prima, trasparenza, e purtroppo parlando di piccola e media impresa noi abbiamo una forte opacità informativa dalla parte della piccola e media impresa, ed è anche per questo motivo che le piccole e medie imprese sono state penalizzate dai rating, perché non sono trasparenti. Il secondo punto, è già stato detto più volte in trasmissione, capitalizzazione. Non dimentichiamoci che è in questo paese che si è inventato lo slogan impresa povera, famiglia ricca. Questa è una grande verità. E infatti questo bisognerebbe tentare di sollevarlo. Ma ha sentito Morandini con quanta passione fa un appello anche ai piccoli imprenditori a mettersi insieme proprio per avere dimensioni non solo di capitale e patrimonio maggiore, ma ad avere economie di scala, eccetera, superando la storica tentazione del piccolo imprenditore italiano, naturalmente, di non associarsi, di non aprire la trasparenza. Poi Morandini, in quello che ha detto, dimostra una visione da imprenditore moderno, quindi da imprenditore che capisce, come dicono gli inglesi, che è meglio avere una fetta di una torta grande piuttosto che continuare ad avere una piccola torta, soprattutto nei momenti in cui le piccole torte possono anche, diciamo così, andare a male e quindi rimanere con in mano niente. La ringrazio, professore. Devo dare 15 secondi a un ascoltatore che stiamo tenendo da un'ora, Claudio da Torino, ma 15 secondi. Prego, Claudio. Sì, allora buongiorno innanzitutto, sarò breve così... Ne ha già mangiati 5, si va dal punto. Bene, allora il mio problema è questo, io sono un'impresa che ho dei problemi verso una grossa banca, no? Dove noi abbiamo il conto e abbiamo un tasso di interesse altissimo che si aggira in circa l'8% sugli anticipi fatture. Siamo soci di un'associazione dove ha fatto una convenzione con queste grosse banche dove il tasso di interesse scende notevolmente, si aggira intorno al 3,5-4%. Ha funzionato? Non ha funzionato. Quando io ho richiesto in banca l'attuazione di questa convenzione, mi è stato risposto che loro non potevano guadagnare con quei tipi di tassi di interessi e che non me l'avrebbero accettato. Ok, io gli ho detto, me lo metta per iscritto questo signor funzionario. E lui mi ha detto, se lei vuole io glielo metto per iscritto domani e gli applico questa convenzione, ma il giorno dopo le richiedo il rientro immediato di tutti gli affidamenti. Bene, Claudio, in questo caso lei deve fare così: siccome noi non possiamo procedere a fare nomi e cognome né dell'associazione di cui le parla né della banca, perché vogliamo fare una verifica, lei mandi una mail a 9@radio24.it descrivendomi bene la cosa, io mi attivo, ci attiviamo sia presso l'associazione sia presso la banca e vediamo, perché se è così le convenzioni vanno applicate e le assicuro che faccio un casino del diavolo, perché noi serviamo anche per questo, serviamo perché i piccoli imprenditori, chiunque, associazioni iscritti ad associazione o imprese individuali, si rivolgano a noi per avere anche la possibilità di portare a casa quello che negli accordi sottoscritti in questi mesi c'è scritto e va rispettato, perché altrimenti, perché Morandini e tanti altri si impegnano tanto per fare rappresentanza e associazionismo, per fare poi accordi che poi le banche strappano e si rimettono nel cassetto? No, ecco, quindi una conclusione un po' di battaglia, la versione di Oscar di oggi. Io ringrazio tutti voi, ringrazio regia Giorgio Matè e Gloria Guerrera e Laura Faggin, grazie a cui ogni giorno riesco ad andare in onda. La linea al giornale radio, appuntamento a domani.